Dal 21 al 23 ottobre a Modena arriva Festivalori, festivaldivalori.it, che vogliamo scoprire. Ne parliamo con la project manager Claudia Vago, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto, che cos'è questo festival? Allora, è il primo festival di valori, cioè la testata di Fondazione Finanza Etica, ed è un contenitore di eventi diversi per 3 giorni nella città di Modena, per cercare di spiegare alle persone che la finanza etica non è fantascienza. Finanza etica, la finanza in generale è una cosa che sembra strana, lontana e difficile, la finanza etica poi sembra un ossimoro, e noi vogliamo dimostrare invece in diversi modi che la finanza etica è qualcosa che esiste oggi e ha una sua funzione, insomma. Tu dicevi diversi modi, perché tra i tanti eventi che ospiterà il festival non ci sono solo, diciamo, gli incontri tradizionali, ma vi siete inventati anche delle modalità ludiche. Esatto, quindi non soltanto le conferenze, insomma, tavole rotonde, diciamo, o talk di ospiti particolari. Avremo alcune delle mostre e avremo dei giochi che saranno dedicati alle scuole al mattino e al pubblico al pomeriggio. Stiamo sviluppando insieme all'Università di Modena un gioco dal vivo, di ruolo dal vivo, sul tema della finanza. E abbiamo altre attività ludiche che abitualmente portiamo nelle scuole, non solo come Fondazione Finanza Etica. Avremo un pranzo, quindi sarà una tavola rotonda proprio nel senso letterale del termine, cioè, nel senso ci sarà una tavola alla quale saremo seduti, mangeremo, e mangiando avremo alcuni ospiti che, mangiando anche loro, ci racconteranno alcune cose sul tema della speculazione, per esempio sulle materie prime alimentari o sullo sfruttamento delle persone che lavorano nella filiera di produzione del cibo, o ancora della sostenibilità ambientale di ciò che mangiamo. Quindi, appunto, abbiamo cercato di inventare anche modalità un po' diverse, un po' nuove, proprio perché finanza è un argomento che tende a essere un po' respingente in generale. Però la finanza potrebbe essere anche, come dire, una chiave di lettura di diversi problemi del nostro presente, di diverse questioni del nostro presente, no? Perché se andiamo a guardare alcuni dei problemi che abbiamo vissuto, stiamo vivendo, forse lo zampino di un certo tipo di finanza c'è. Penso ad esempio al caro bollette, si è parlato molto delle speculazioni sul borsino di Amsterdam. Assolutamente, la finanza è un'infrastruttura che sta alla base della nostra società, insomma, che comunque ne costituisce un'ossatura importante. È il luogo, o almeno teoricamente dovrebbe essere il luogo in cui si incontra l'offerta di denaro, quindi chi detiene i capitali, chi ha dei soldi da parte e vuole investirli, con chi invece ha domanda di denaro perché banalmente vuole chiedere un mutuo o perché ha un'attività che vuole ingrandire, investire, eccetera. Il problema è che la finanza è diventata sempre più una macchina che fa soldi dai soldi e completamente slegata da questo meccanismo virtuoso, appunto, dell'incontro fra domanda e offerta di denaro. Soldi che rincorrono i soldi per fare altri soldi, insomma. E da qui quindi tutto il tema della speculazione che stiamo vedendo sul gas e che sta facendo aumentare il prezzo del gas, laddove non c'è scarsità di gas, che quindi potrebbe far pensare a un aumento del prezzo, ma la finanza ha ricadute su tutta la nostra vita, e noi tendiamo a, appunto, con l'idea che sia una cosa noiosa, difficile, di cui non capiamo nulla, di cui quando ci viene parlato si parla sempre con termini molto complicati che non vengono mai spiegati. Quindi anche la speculazione ne sentiamo parlare, ma non abbiamo idea di come funzioni e nemmeno, tantomeno, di come la si potrebbe fermare. Ecco, abbiamo quindi questa tendenza a non occuparci di finanza, e però la finanza si occupa di noi, perché ha a che fare con la nostra vita quotidianamente, perché tutti noi abbiamo un conto corrente, abbiamo un'assicurazione per l'auto o il motorino, e tutte queste cose sono finanza. E gli istituti finanziari, quindi le banche, le compagnie di assicurazione, i fondi di investimento, i fondi pensione, eccetera eccetera, con i nostri soldi fanno delle cose, e noi, dato che non ce ne vogliamo occupare perché pensiamo che sia difficile e complicato, non ci chiediamo neanche che cosa la nostra banca o la nostra compagnia di assicurazione fa con i soldi che diamo. E per esempio quello che fanno potrebbe essere finanziare la produzione e il commercio di armi, oppure potrebbe essere finanziare i combustibili fossili, che ormai sappiamo essere la causa della crisi climatica. Forse se noi sapessimo e facessimo le domande giuste, chiedessimo ai nostri istituti finanziari che cosa fanno con i nostri soldi e scegliessimo quindi a chi dare i nostri soldi sulla base di che cosa ne fa, forse diverse cose potrebbero cambiare nel mondo. Per esempio, potremmo combattere la crisi climatica, potremmo diminuire la produzione di armi armi nel mondo, eccetera, eccetera. Tu parlavi di armi, c'è anche una mostra all'interno del festival che, insomma, vede anche poi la partecipazione di una persona che i nostri ascoltatori conoscono, che è Francesco Vignarca. Ebbene sì, all'ex albergo di Urno, che sta in Piazza Mazzini a Modena, ci sarà questa mostra che è un estratto di una che Senza Atomica proporrà a partire dai primi mesi del 2023 sul tema del disarmo nucleare, insomma un tema attualissimo. Quindi noi abbiamo messo in una grafica nostra i contenuti che Senza Atomica ci ha fornito, grazie anche al contributo di Francesco Vignarca, e lì sarà possibile esplorare il tema delle armi nucleari per sapere quante sono nel mondo, chi le detiene, quanto sta a detenere queste armi, chi finanzia la produzione e il mantenimento di questo arsenale gigantesco, quali sono i pericoli, in quali sono i luoghi dove vengono fatti i test nucleari e quali sono le conseguenze sull'ambiente e sulle popolazioni, per poi arrivare alla proposta, quindi che cosa si potrebbe fare, che cosa si sta facendo. Il trattato TPNW, per esempio, che però non è stato sottoscritto da tutti i paesi, l'Italia per esempio è uno di questi, e quindi c'è una campagna Italia Ripensa che chiede all'Italia di aderire a questo trattato. E quindi esploreremo tutto questo mondo intorno al tema delle armi nucleari. Se dovessi segnalare anche qualche altro evento particolarmente interessante del festival? Beh, allora tutta la giornata del sabato sarà al Teatro San Carlo, e lì si alterneranno tavole rotonde e speech, appunto, come dicevo, e avremo alcuni ospiti come il ministro uscente, ormai per credo poche ore, Enrico Giovannini, il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, che dialogheranno insieme a Sabine De Luca del Forum Disuguaglianze e Diversità e Anna Fasano, che è presidente di Banca Etica, guidati da Andrea Barolini, direttore di Valori, sul tema della ripresa post-Covid, come costruire una ripresa che sia anche giusta, equa e sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale. Ci saranno alcuni speech, appunto, come Sofia Pasotto di Fridays for Future, che ci spiegherà come smontare la crisi climatica come se fosse un mobile dell'IKEA, Marco Ripoldi del Terzo Segreto di Satira, che ci racconterà che cosa vuole fare da grande, e Misha Maslenikov di Oxfam, che esplorerà il mondo dei paradisi fiscali e delle disuguaglianze che questi paradisi fiscali creano. Parleremo di finanza e clima, parleremo di quanto è difficile fare informazione sulla finanza, appunto per le cose che dicevo prima, insieme a Massimo Cirri di Caterpillar, e poi parleremo di workers buyout, quindi di aziende rigenerate dai lavoratori stessi che si costituiscono in cooperative e rilevano aziende in fallimento. Un altro evento che mi piace segnalare è al Museo della Figurina, dove peraltro è in corso una mostra sui 40 anni del Mondiale del 1982. Domenica pomeriggio si terrà un panel sul tema del calcio e la finanza, perché magari insomma potrebbe non sembrare che ci sia un collegamento diretto, invece c'è un collegamento. Ormai la gran parte delle squadre di calcio sono in mano a fondi di investimento, e che cosa significa questo lo capiremo insieme a Luca Pisapia, che guiderà questa tavola rotonda con il sindaco di Verona ed ex calciatore Damiano Tommasi, Pippo Russo, che è un sociologo che si occupa di sport, e Cesare Bisoni, che è stato per una quindicina d'anni presidente della Covisoc. A proposito di sport, in questi giorni che anticipano il festival abbiamo visto la nascita di Goal Bank. Che cos'è? Goal Bank è la banca dei sogni, è una banca meravigliosa, completamente digitale, quindi cioè non bisogna andare allo sportello, tutto si fa tutto da telefonino, apri il conto in 15 minuti, non devi firmare niente, e poi è gratuita, che insomma non fa male, e ha questo vantaggio poi clamoroso che è completamente trasparente, cioè la maggior parte delle banche spendono quantità impressionanti di soldi per campagne di greenwashing, perché devono fare comunicazione per raccontare quanto sono ecologiche, quanto sono sostenibili, quanto sono attente all'ambiente e ai diritti, quando invece nel frattempo investono in armi e in combustibili fossili. Ecco, Goal Bank no, Goal Bank dice chiaramente le cose come stanno, e insomma è uno scherzo che abbiamo fatto qualche settimana fa girando un video con due attori che fingevano di essere i promoter di questa banca, fermavano le persone in centro a Modena e raccontavano loro: ah no, noi vi garantiamo insomma profitti a due cifre, perché sì, no, insomma noi investiamo in armi, che in questo momento è un settore che sta andando molto forte, e questo ci permette quindi di darvi un tasso di interesse altissimo. E le persone sconvolte, ovviamente, e però quello che il commento che facciamo noi è: quante di queste persone poi effettivamente sanno che cosa le banche fanno con i loro soldi? Perché nella lista delle banche armate ci sono molte banche italiane, banche in cui probabilmente le persone che a noi rispondevano in maniera sconvolta hanno i loro soldi, insomma. e quindi siamo al punto di prima, dobbiamo farci domande, chiedere alla nostra banca che cosa fa con i nostri soldi, e nel momento in cui ci viene detto è normale indignarsi, perché fa oggettivamente schifo sapere che con i miei soldi, per quanto pochi, sto alimentando la produzione di armi. E allora, per Festivalori sono 3 giorni, 30 ospiti, 16 eventi e 8 location sparse per Modena, e però ti chiedo di ricordarci come fare a sapere tutte le informazioni necessarie e vedere anche il programma completo. Allora, il programma completo sta sul nostro sito, che è festivalori.it o festival.valori.it, il sito è lo stesso. Gli eventi sono tutti ad accesso libero, gratuito. L'unico sul quale chiediamo prenotazione e un contributo è il pranzo, perché gli spazi sono limitati e noi offriamo una parte, insomma paghiamo una parte del pranzo, però il resto è a carico di chi partecipa. In ogni caso sul sito ci sono tutte le indicazioni per partecipare. Allora ricordo, Festivalori dal 21 al 23 ottobre a Modena. Grazie mille, Claudia. Grazie.